English 24. Buonasera da Marta Cagnola e da Giulia Crivelli. Mentre noi siamo qua tranquille nel nostro studio per parlare del nostro English 24, c'è qualcuno che sta fremendo a Cannes, perché sono le battute finali per il Festival del Cinema. Noi abbiamo seguito un po' di conferenze questa settimana a Radio 24 e proprio di una delle conferenze che abbiamo seguito in questi giorni ci occuperemo questa sera, perché uno dei film più attesi era il film di Terrence Malick, un regista misteriosissimo, in pochi l'hanno visto, l'abbiamo visto al Festival di Roma pochi anni fa, ma lui non parla volentieri in pubblico, non si fa fotografare, e infatti la conferenza stampa per la presentazione del suo The Tree of Life l'ha sostanzialmente fatta il protagonista, che è Brad Pitt. Piace a molte, è bellissimo, ma come sentirete tra poco anche una bella voce, e ha spiegato ebbene come è nato questo incontro con il film di Terrence Malick. Sentiamo. His idea is, even though he handed us a very dense script, he was more interested in catching what was happening on the day. He's like a guy standing there with a big butterfly net and waiting for that moment of truth to go by. So the kids themselves were not given the script, they weren't allowed the script. They had a closet of clothes, they put on what they wanted to put on that day, and that's what we shot in. And we would do two takes, and Terry would also bring in, he would get up every morning and write for an hour, and he would give us pages in the morning, single spaced, like 3 or 4 pages, and we kind of developed something out of that. And I think because of that is why the moments are fresh, because they're not preconceived in any way. Ecco come si lavora con il misterioso Terrence Malick, perlomeno come ce l'ha raccontato Brad Pitt. Tutto è nato con uno script, l'abbiamo detto molte volte, questo significato di questa parola, di questo script molto denso, eppure Terrence Malick ha un suo modo di girare molto fantasioso, lo si vede anche nei suoi film. Ecco come ce l'ha spiegato Brad Pitt. Quindi script, che no, non è scritto, anche se manuscript è il manoscritto, script è il copione, quindi ci ha dato un very dense script, denso, che ovviamente in senso figurato, però era quindi non è che fossero liberi, non è che fossero completamente lasciati a se stessi, c'era questo dense script, però lui era molto interessato a catching what was happening on a day, come è un modo molto gergale per dire to catch up, vuol dire aggiornarsi, star dietro a quello che succedeva in realtà giorno per giorno. E qui c'è un'immagine molto bella, e Brad Pitt con questa sua bella voce, io tifo Abemus Papam di Moretti, ma un po' anche Brad Pitt, diciamo, così l'ho detto. Beh, lui, ecco, insomma. Perché per la bellezza, il film non l'ho visto, mentre ho visto Abemus Papam, e quindi Brad Pitt dice come a guy standing with a butterfly net, che è un'immagine molto bella, un ragazzo, un signore, che sta lì con una net, una rete da farfalle e aspetta. Aspetta il momento della verità, lo diciamo anche in italiano. Quindi una combinazione di questo script molto denso e di questo dell'attesa dell'attimo. C'erano anche dei bambini nello script, nella sceneggiatura, nel copione, nella storia. Tra poco ci spiegherà anche Brad Pitt qual è la storia, perché c'è una storia di una famiglia. Lui come girava questo misterioso Malick? Quindi per dare probabilmente spontaneità, the kids were not given the script, perché guardate che i bambini hollywoodiani sono serissimi, quindi probabilmente ad alcuni viene proprio dato il copione e devono studiarlo. Questi bambini no, they were not given the script, e anche per quanto riguarda quello che dovevano indossare, c'era un closet of clothes, quindi c'era un armadio pieno di vestiti, ma they could put on what they wanted, quindi non era un armadio finto e poi c'era una stylist che diceva tu oggi ti metti questo e questo, no, erano loro a scegliere, e quindi we would do two takes, quindi facevamo due scene alla volta, giravamo e poi naturalmente si sceglie, sì, magari anche in post produzione, quella che era più a questo punto sicuramente più naturale, se questo è davvero quello che interessa a Terrence Malick, più che il seguire pedissequamente il dense script, che pure c'era. Infatti Brad Pitt parla di una certa freschezza. Sì, dice che appunto the moments are fresh, quindi letteralmente, quindi c'è una freschezza del film. E qui c'è un interessantissimo uso di would, che sappiamo che normalmente è il condizionale, però spesso gli americani, soprattutto gli americani e non gli inglesi, lo usano come se fosse un imperfetto. Quindi lui dice Terence would get up, che in italiano diciamo, tradurremo Terence Malick si alzava, we would do two takes, facevamo due scene. Però appunto, siccome si ricorda un momento, viene usato il condizionale, ed è però non possiamo tradurlo come si alzerebbe o gireremmo, letteralmente si traduce con l'imperfetto. Le domande su questo film sono state molte a Brad Pitt, che ha dovuto rispondere un po' al posto di Terence Malick insieme ai produttori del film. In particolare, uno degli aspetti che ha incuriosito maggiormente di questo film è stato l'aspetto spirituale. Ebbene, Brad Pitt ha dato una spiegazione molto convincente di tutto questo. You know, again, I find this film more universal. I hope it speaks to people. It speaks to all cultures, and as far as a childhood, deciding who you're going to be, and you try on things. Some things work for you, some things don't, and you're being honed by the influences around you. Terry designed it as the mother represents grace and love and all that is pure and good, and the father represents this oppressive nature, the nature that must survive and that will choke out another plant in order to do so. The young child is trying both things on and figuring out what works for him and who he's going to be as he grows up. And then there's the bigger questions of the impermanence of life that I think we all go through. Una storia per molti versi, poi lo sappiamo, autobiografica, quella di questo film di Terence Malick. Una madre, un padre, i figli, anzi in questo caso particolare un figlio. Il tutto però quasi un pretesto per dare una visione, che è una visione universale, di una certa visione filosofica e spirituale di Terence Malick. Una visione universale, appunto, l'ha definita Brad Pitt. Notate subito che, appunto, essendo universal, una parola molto lunga per gli standard inglesi, e qui ci vuole il comparativo, non sarà mai universaler, ma sarà more universal. Quindi Terence Malick voleva dare un respiro più universale, un film che speaks to all people and to all cultures. Questa è la parola di Brad Pitt. E soprattutto questo nodo, che forse non ci pensiamo, però in effetti è già durante la childhood, cioè il momento in cui siamo bambini, che cerchiamo di capire who we are gonna be, gotta, l'abbiamo già visto la scorsa settimana, lo usano molto gli americani, sta per who you are going to be, quindi una forma futura, chi sarai, che cosa diventerai. Con il ruolo della madre e del padre, che non sono solo due personaggi nel film, ma che hanno anche loro appunto un valore universale. Sì, un po' simbolico questo nell'idea di Terence Malick. Quindi the mother represents grace and all that's pure and good, quindi la madre è la grazia e tutto ciò che è puro e buono, and the father represents this oppressive nature, la natura oppressiva, un po' tutte le costrizioni che magari in misura minore o maggiore tutti ricordiamo o di cui abbiamo fatto esperienza. E addirittura c'è questo paragone, forse addirittura la madre natura un po' cattiva, la Leopardi nostra, cioè una madre natura che choke out on other plants in order to do so, che non esita a nutrirsi di altre piante, quindi di altri esseri viventi, per sopravvivere. Noi in un certo senso ci possiamo identificare nel figlio, perché il figlio è quello che finisce col farsi delle domande attraverso le quali passiamo tutti, dice in un certo senso Pitt. Sì, to figure out, questo che è un verbo che usano moltissimo gli americani, è un phrasal verb. To figure out vuol dire capire, ma proprio è quasi descrittivo, cioè fare una figura di quello che succede, cioè farsi lo schemino, capire finalmente, riuscire a fare uno schemino delle cose che vuoi, in questo caso della vita, quindi del significato della vita. The bigger question, the impermanence of life, che potremmo tradurre insomma come l'immortalità o il significato della vita, the meaning of life, tutto sommato, no? Tutti più o meno ce lo chiediamo, forse ancora di più quando siamo piccoli, perché tutto ci sembra più misterioso. Profondo questo Brad Pitt. Poteva diventare un attore belloccio, biondino, da commedia inutile, e poi magari scomparire nel nulla, e invece si è costruito una straordinaria carriera attraverso dei film importanti come questo. Ma come Brad Pitt sceglie i suoi film? Una domanda che spesso si fa agli attori, ecco come ha risposto lui. You know, like the film itself, you want to discover, you want it to be about something, you want to find something new. I always have, I want to find something different, And that's been my focus. Also, I think in my, it was about 10 years ago and I started thinking about my favorite films. And they weren't the big commercial things. They were things that had a little more depth, that were asking bigger questions or really, really funny. And I do like a comedy. There's some great comedy coming out of America right now. Saranno un 10 anni, lo riconosce, che ha cominciato a chiedersi quali sono i film che vuole fare davvero, e probabilmente, avendo una carriera giunta a un certo punto, può anche permettersi di scegliere solo quello che gli interessa. E cosa interessa Brad Pitt? C'è una dichiarazione un po' sibillina, perché non si capisce se questi 10 years ago that I started thinking about his favorite films sono quelli che ha interpretato lui, e io ci metterei Legends of the Fall, Vento di Passioni, dove lui ha raggiunto il massimo di bellezza, secondo me, di bravura, non so, oppure favorite films in generale. In ogni caso, non sono quelli, i big commercial movies, quindi per esempio, insomma, i blockbuster che vengono dall'America, che conosciamo tutti, ma the things that had a little more depth, quelli che avevano un pochino più di profondità, nemmeno poi tantissima, a little more. E sempre con queste domande molto filosofiche che lui ha deciso di porsi. Ma si concede anche un altro aspetto, viva Dio, non è solo concentrato sulle domande filosofiche, ma si concede anche qualche risata, diciamo così. Quindi sempre sei tra i suoi favorite films, quindi si oscilla tra questi molto pesanti, insomma almeno un pochino profondi, e poi really really funny, e qui ride lui stesso. Non è che abbia avuto grandi ruoli comici lui, tranne i fratelli Coen forse ultimamente, che gli hanno dato un ruolo comico fantastico, però lui dice I do like comedy. Avrebbe potuto dire naturalmente anche I like comedy. I do like comedy è un rafforzativo per dire mi piacciono davvero i film comici. Ci sono great comic films, quindi Coming Out of America. E, il Sacha Baron Cohen, insomma, forse è piaciuto più qui che in America, però poi c'è Woody Allen naturalmente, e ci sono, secondo lui, insomma, c'è questo filone comico molto buono, forse anche che ha ripreso vigore negli ultimi anni, perché effettivamente c'erano stati tutti forse le esagerazioni di Porky's o cos'era, American Pie, o hanno Scream. Avuto un certo successo. Sì. E forse invece, insomma, un comic film può essere un film fatto benissimo, però senza essere così una commediola da niente. Aspetteremo allora per capire quali sono i film che hanno particolarmente fatto ridere Brad Pitt. Salutiamo il nostro Brad in attesa di sapere chi vincerà questa Palma d'Oro al Festival di Cannes. Noi ci salutiamo qui perché è finito il nostro tempo per l'English 24 di questa settimana. Vi ricordo l'appuntamento con English 24 in edicola, tutte le anticipazioni che troverete sulla nostra pagina Facebook, sulla pagina di English 24. Ringrazio Mauro De Angeli in regia, da Marta Cagnola e Giulia Crivelli l'augurio di una buona serata.